Letture di Radio 24. L'attentato di questa settimana alla deputata americana Gabrielle Giffords, che ha portato all'uccisione di 6 persone, fra cui una bambina di 9 anni e numerosi feriti, ha suscitato lo sdegno di molti. Enrico Mentana, nella sua rubrica settimanale su Vanity Fair, ripercorre alcuni fra i più celebri attentati contro esponenti politici o uomini di governo che accomunano gli Stati Uniti con l'Europa e la stessa Italia. Gabrielle Giffords è solo l'ultima figura di rilievo degli Stati Uniti a rischiare la pelle sotto i colpi di un fanatico. Intendiamoci subito. Non è solo una piaga americana quella degli attentati mirati. Non c'è grande nazione che non abbia vissuto episodi di violenza contro le istituzioni. La Prima Guerra Mondiale, impariamo a scuola, fu innescata dall'attentato di Sarajevo. Il Novecento italiano ne è stato segnato dall'inizio alla fine. Il regicidio di Umberto I per mano dell'anarchico Bresci è proprio del 1900 e gli attentati a Mussolini, a Togliatti e lo stesso rapimento Moro hanno scandito il secolo. Ma non si può certo dire che quelle azioni siano entrate nella nostra coscienza collettiva. Semmai ci resta l'angoscia per gli attentati nel mucchio, Piazza Fontana, Brescia, i treni, Bologna, quelli del terrorismo oscuro lungo un quindicennio di sangue. Ma è cosa diversa. L'attentato per togliere di mezzo un protagonista è invece una maledizione continua della storia degli Stati Uniti da Lincoln in poi. La maledizione di un paese nato da una guerra di indipendenza e subito battezzato da una guerra civile, e che ha nella sua epopea l'insediamento a ovest a colpi di carabine e di Colt. Tucson, Arizona, è uno dei luoghi mitici di quella stagione. Oggi, teatro dell'ultimo attentato, è come se richiamasse il peccato originale di un paese che ha vissuto fin dall'infanzia con le armi nella fondina. Per noi il Far West è il luogo di fantasia della lotta tra cowboy e pelle rossa. Per gli Stati Uniti è una pagina di storia. Di più, come ogni altrove, per noi il West, le diligenze assalite, le squo e i fuorilegge sono immagini senza tempo. Eppure la conquista del West e la guerra civile americana coincidono temporalmente in modo perfetto con il nostro risorgimento, con l'unità d'Italia, di cui con sforzo cominciamo a festeggiare il 150°. Cavour muore 4 anni prima di Lincoln, la Marmora 2 anni dopo Custer, Garibaldi 3 anni prima di Grant. Questo per capire come i miti fondativi degli Stati Uniti non siano separabili dall'immagine delle armi in pugno. E da quel peccato originale nasce tutto. La passione degli americani per ogni tipo di arma da fuoco, l'irrisoria facilità con cui chiunque può dotarsi di un fucile o di una pistola, le stesse stragi nei licei e nei campus. E gli attentati politici, certo, ci sono sempre stati, ma la loro pratica terribile ha ripreso forza 50 anni fa, a Dallas. Quelli della mia generazione hanno visto in TV l'attentato a John Kennedy e per tutti è stato il vedere per la prima volta un omicidio, una vita che veniva stroncata da un proiettile. Erano passati 18 anni dalla fine della più grande carneficina della storia, la Seconda Guerra Mondiale, e lo sparo di Dallas troncò la vicenda dell'uomo che il mondo associava all'idea di pace e di progresso. 2 anni dopo sarebbe stato ucciso Malcolm X, poi Martin Luther King e il fratello di Kennedy, Bob. Questi attentati non hanno avuto una firma politica o religiosa riconoscibile. Pazzi o lucidi, gli attentatori americani non sono incasellabili nelle nostre categorie. Anarchici, fondamentalisti, rivoluzionari, comunisti, fascisti, nazisti. L'uomo che all'inizio del 1981 sparò al neoeletto presidente Reagan, perforandogli un polmone e sfiorandone il cuore, voleva far colpo su Jodie Foster. I due studenti che nel 99 fecero il massacro di Columbine e poi si suicidarono erano solo fanatici di armi. Quella carneficina, 12 morti più i due autori, fu per gli americani l'ultima del XX secolo. Quello successivo, il nostro, è stato aperto da un'azione che sembrava aver segnato in modo ben diverso la grande nazione. Le migliaia di morti dell'11 settembre sono state riassorbite con difficoltà dall'America profonda. Le autorità vollero contrastarne il sentimento tragico pubblicando un volume con le foto di 50 bambini nati proprio in quel giorno del 2001, uno per stato. L'immagine dell'Arizona era Christina Taylor Green, uccisa a Tucson con altre 5 persone, in nome di una violenza che anche così uccide ogni simbolo di speranza. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Risorgimento da noi, Carabine in America, di Enrico Mentana, pubblicato da Vanity Fair di questa settimana. Martedì 11 gennaio è morta Lietta Tornabuoni, all'età di 79 anni. Una delle più grandi giornaliste del nostro paese ha ricevuto sulle pagine della Stampa, il giornale per cui ha lavorato per 40 anni, un omaggio dal collega Luigi La Spina, editorialista del quotidiano torinese, che la ricorda così. Lei camminava veloce in quel mattino romano di primavera. Uno strano silenzio cingeva di stupore e di angoscia il cuore della città blindata, e solo il rumore ritmico dei tacchi sui sanpietrini di via Sant'Ignazio sembrava accompagnare i battiti dell'emozione. Io, giovane cronista, conscio di dover affrontare un avvenimento troppo più grande della mia inesperienza, mi affrettavo a accompagnarla verso quella via Caetani, dove ci aspettava il compimento di una grande tragedia di Stato e, insieme, la fine della speranza che un uomo potesse sfuggire alla sua trappola di morte. Pochi minuti prima, la radio aveva annunciato il ritrovamento del cadavere di Aldo Moro, ristretto dentro il baule di una Renault rossa. Le mie domande, stupide e inopportune come quelle che si affollano in un cervello sopraffatto dalla trepidazione, piovevano addosso a lei senza scalfirla minimamente. Muta, le labbra strette a mangiarsi l'immancabile rossetto, unica spia della civettuola vanità di una bella e consapevole donna, ficcava i suoi scuri e penetranti occhi sulle facce degli spettatori di quella terribile scena, sui rosati palazzi della Roma barocca che faceva da quinta a quel teatro dell'orrore. Io concentravo l'attenzione sulla vittima, come se quel corpo martoriato potesse suggerire il significato di una vicenda assurda. Lei registrava nella sua implacabile memoria i sentimenti di smarrimento dei poliziotti, dei politici, dei curiosi che si affollavano intorno. Finalmente, lei rispose al mio sguardo interrogativo e perplesso, quasi con un mezzo sorriso di affettuosa comprensione. «Sai, nel nostro mestiere quello che fa la differenza sono i dettagli. Lietta, come tutti la chiamavano perché la celebrità le aveva sottratto il cognome, ha dedicato tutta la vita a questo mestiere, di cui era maestra solo con l'esempio di un morboso e gioioso attaccamento. In realtà, non aveva scelto il giornalismo, ma aveva semplicemente riconosciuto e accettato il destino di una straordinaria vocazione, come quella di una chiamata religiosa, quella che ti sceglie perché ti dona tutte le qualità degli eletti, ma che ti chiede il sacrificio di ogni alternativa e ti preclude persino la libertà di un rifiuto. Il fascino dei suoi racconti di allora, indifferentemente dedicati alla tragedia delle Olimpiadi di Monaco, del caso Moro, come ai ritratti, scolpiti nell'ironia, dei nostri politici, era legato innanzitutto alla lettura di una lingua bellissima, un italiano che risentiva di un'aristocratica educazione e di quella calviniana leggerezza che soprattutto i toscani colti possiedono. Una lezione che nei giornali di oggi, spesso così approssimativi e confusi nella scansione del ragionamento, dovrebbe essere materia di obbligato studio. I suoi aggettivi non sopportavano sinonimi e le sue parole erano rigorose come il suo carattere. Lietta odiava specialmente la sciatteria, la prolissità, l'imprecisione, sia nel linguaggio sia nella scrittura. Una serietà che applicava nella preparazione ossessiva dei suoi incontri di lavoro. Ore di studio sui personaggi che doveva intervistare, pagine e pagine di letture sulle storie che doveva raccontare, magari in poche righe. Tutti i colleghi che hanno avuto la fortuna di lavorare con Lietta ricordano con un certo imbarazzo i momenti dell'esame mattutino. Lei, alle 7, aveva letto tutti i giornali e il suo interrogatorio sui fatti del giorno era spietato perché non ammetteva distrazioni notturne, debolezze antimeridiane, crolli di pressione troppo basse. Ma i rimproveri impliciti dei suoi immobilissimi occhi duravano poco e si scioglievano presto nell'espressione più bella del suo largo viso, il sorriso contagioso per l'avventura professionale che la giornata doveva riservarle. Sì, perché il lavoro del giornalista era per lei soprattutto gioia, quel soprassalto di curiosità appagata che le faceva scoprire il lato meno conosciuto e magari più interessante di un protagonista dei nostri giorni o di una storia dimenticata. E il successo professionale, di cui era pure consapevole, non oscurava quel brivido di dubbio, di incertezza, di tremore che assale ognuno di noi quando affronta una pagina bianca o uno schermo vuoto. Così la sua apparente sicurezza tradiva, per chi la conosceva bene, il rovello segreto di chi sa di dover superare sempre una prova inedita, per la quale un passato pure brillantissimo non è mai garanzia di un futuro altrettanto sicuro. Ma quella sfida, che si rinnovava ogni giorno e che trovava ormai solo lei giudice inesorabile di se stessa, era ragione di vita e di consolazione per un destino privato difficile che tormentò i suoi ultimi anni. Il riserbo e l'orgoglio le impedirono di manifestare in pubblico il cruccio di aver sacrificato la sua vita al giornalismo e alla sua famiglia di origine, senza aver provato la gioia della maternità. Un giorno, davanti alla culla di un neonato, figlio di un amico, scoppiò in un pianto disperato e sorprendente per un carattere riservato come il suo. Forse era il dubbio dell'ipotesi di una vita diversa, ma anche lei sapeva che non le era stata data quell'alternativa a una vocazione assoluta, alla quale si poteva solo obbedire senza rimpianti. Cara Lietta, tutti noi, colleghi qualche volta intimiditi dal tuo esempio troppo impegnativo, qualche volta invidiosi del dono di una scrittura così lucida e brillante, qualche volta intimoriti in attesa del tuo giudizio, ti abbiamo voluto bene. Assieme ai tuoi lettori, adesso che ci manchi, vedrai che saremo capaci di volertene un po' di più. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Addio a Lietta Tornabuoni di Luigi La Spina, pubblicato dalla Stampa di mercoledì 12 gennaio.